capito che sono animali buoni, mangiano solo gli insetti, loro stanno dove c'è la luce, di modo che quando ci sono i mucilini attorno vanno e li mangiano, capito? Fanno queste cose, anzi ti toccano gli insetti. Solitamente stanno in alto sul muro, solitamente. Si serve anche la mia compagna le serve molto. Ma non fanno nulla, sono i lupi, sono animali che addirittura distruggono gli insetti, capito? Ma non fanno male alla mosca, io li prendo anche con le mani, sono tranquillo. Ma non sai come si prendono, devi tenere un po' stretta la bocca, non tanto stretta, li metti lì, le due dita sulle estremità della bocca e praticamente non fanno niente, si può accarezzare e fare tranquillo, poi le muovi e se ne vanno tranquilli, non sono nemmeno aggressivi, capito? Sono aggressivi se tu magari li tocchi e allora si girano, però se li sai prendere, li prendi per la bocca non ti morsicano. Naturalmente se si accorgono che li puoi prendere, allora sì, però sono arrivati bravi. Io ti ho visto uno che ha preso un insetto al volo, c'era un lampione vicino a casa di mamma, e se ne stavano sotto questo lampione, ma non uno, no, 3, 4, 5. Come passavano le zanzare oppure altri insetti, al volo li prendevano, tac, e se li mangiavano. Allora tuo compagno ti regalo l'iguana. E quando Marco te lo aspetti lo vedi spuntare. Vabbè dai, io ti lascio qua che vado a mangiare, che mi sono trattenuto un po' di più, ma mi ha fatto piacere, dai. Visto che ti sento poco in questo periodo. Vabbè, saluta Babbo e tante cose belle, là, stanno tutti bene, sì. E, ciao Claudio, ci sentiamo, fatto piacere anche a me. Comunque io ho collegato Austria e Croazia da poco. C'era anche Claudio, mi ha collegato anche lui, tutti e due. Sono rientrato? Ormai ce ne stiamo andando, io me ne sto andando perlomeno, là. Ti saluto, io vado a mangiare. Ciao Gianni, dai, anche io ho già mangiato, però rimango un pochettino in radio, sono anche su altre bande, dai. Claudio Muro su a te. Ma guarda, io di lì su VU quasi niente, sto entrando, un po' di inverno ci siamo entrati, ci siamo sentiti dal canale Munito, poi ognuno si faceva i fatti sui, un po' con Claudio qualche volta a Walter è entrato, ma più che altro con Claudio quando eravamo a 525. Poi mi sto divertendo a fare i diplomi, io ne sto facendo a decine, naturalmente è una cosa divertente, sono molto classificato. Bene, ho guardato poco fa i risultati, sono rimasto a bocca aperta e ti posso dire non è che li stia facendo a livello nel senso professionale, sempre attaccata alla radio perché li faccio la sera e basta quando c'ho tempo, però ho fatto delle belle cose, su 1000 passi sono arrivato un parecchio 19esimo, l'altro 38esimo, cioè in Sardegna nessuno mi ha battuto e sono stato non per vantarmi, lo sai che non sono tipo che piace vantarmi, però ne ho fatto di questi diplomi una trentina ne ho fatto e sono sempre in buone posizioni, tra i primi, qualcuno anche tra i primi 10 sono entrato, vabbè ce ne sono ancora che devono finire. Però adesso poco fa ho guardato, sono 19esimo in uno che mi interessa fare, dove c'è tutto il mondo di lì, e sono arrivato, per adesso sono 19esimo, perché di lì ti colleghi anche su diverse bande e ti danno più punti, e mi sta divertendo, dai, mi sta facendo poco. Poi sto cercando di fare dei country che c'ho tutto il mondo da fare, ne avrò fatto un'ottantina su 340, adesso devo montare un'altra antenna, ho messo una verticale qualche mese fa, un mesetto fa, e quella se lo lungo distanze schicchia forte, adesso devo montare, ce l'ho già pronta, però è un'operazione un po' più delicata, un'antenna particolare che mi ha dato un amico di Abbasanta, la devo mettere su, lui ha collegato quasi tutto il mondo con quell'antenna lì ed è il radioamatore fresco come lo sono io, però dà grandissime soddisfazioni con poca potenza. Di nuovo a te Claudio, piano piano mettiti di impegno, che si fa, ed è molto divertente, è una cosa che per te è rara, collegare per gli Stati Uniti o collegare non lo so, qualche parte dell'Italia è una cosa semplicissima, molto molto facile in tutti i momenti e del giorno e della notte i colleghi, parliamo in bande HF, radio amatoriale, per dire il Giappone, che sembra una cosa impossibile, la collego tutti i giorni solo in Giappone io, ma ci sono delle zone un po' più critiche, dipende anche dalla propagazione, però se ti metti l'antenna, io ho notato, io ho due antenne che diversifico, per dire sulle lunghe distanze uso quella verticale lì e mi dà delle belle soddisfazioni, mentre sulle brevi distanze, per dire le brevettate, io intendo il continente. Io guarda con quell'antenna di pollo, quella verticale, quella con di pollo buttato, tra l'altro neanche in modo impeccabile, col progetto di Marco KB, e ti posso dire mi sto togliendo delle soddisfazioni, mi danno dei rapporti eccellenti, e infatti pochissima gente qua con le antenne anche magari dedicate riescono a fare, tutta l'Italia faccio, dalla Ossa tutti i giorni fino alla Sicilia, sempre segnali superano i 9, infatti mi conoscono per i, a parte la modulazione 940, c'è una bellissima modulazione inconfondibile, ma appena schiaccio, appena dico nominativo, ciao Roberto, dico sempre forte arrivi, vai su altre zone lontane mi fanno 10 a 0 con l'altra antenna, però con quel di Polo tutta l'Italia la copro tutto l'anno perfettamente, sia negli 80, nei 40 e nei 20 metri, arrivo sempre forte, segnali mi danno rapporti superiori a 9, sempre, tutti i giorni. Allora, ho visto il tuo video, la ricezione, io non ho avuto tempo perché era alle 10 e mezzo del mattino, purtroppo io a quell'ora lavoro, volevo farlo, però già capiterà altre volte, tanto non... era bello perché era proprio la Sardegna collegata alla scuola di Nuoro, una scuola di telecomunicazione di Nuoro, era molto interessante per quello. Ho fatto una ricezione di una cosa un po' strana, tempo fa, infatti me la sono salvata sul cellulare, non mi ricordo cos'era, però già te lo faccio vedere con calma, adesso mi devo ricordare che cos'era, su una banda particolare, infatti ho detto boh che strano ascoltare cose qua. Poi vabbè, la propaganda russa l'ho ascoltata tante volte, perché adesso ti stanno bombardando nelle HF, sentono 24 su 24 i russi e ti mandano propaganda di tipo quando succedeva ai tempi dei nazisti e dei cose, dei fascisti durante la seconda guerra mondiale, c'erano le radio degli alleati, davano propaganda degli alleati, e poi c'erano le radio dei coso, dell'asse, diciamo, dell'Italia, della, come si chiama, della Germania, dei paesi che dicevano le altre cose esattamente il contrario, però anche quello fa parte della radio, nel bene e nel male, bisogna ascoltare di tutto. No, interessante ascoltarla, con la Tito Ferretti ho fatto il diploma di lì e mi sono qualificato molto bene, non mi ricordo se sono arrivato 9 o 19, adesso non mi ricordo, mi arrivano i continuo pure le QSL, perché di lì ogni collegamento che fai ti arrivano, la maggior parte ti danno la QSL, ti scrivono l'orario e tutto, e poi fa punteggio, vuol dire 5 punti nella banda degli 80 metri, 3 punti nel coso, poi c'è stazione Giulli che ti dà altri 2 punti, 5 punti, e fai classifica, e ti posso dire una cosa molto divertente, di nuovo a te, riprendi Claudio. E certo che sì, soprattutto più sali di frequenza e le distanze si accorciano, per dire, si va in linea ottica, più sali e peggio è, soprattutto nelle UHF va un pochettino meglio, però non c'è propagazione, la propagazione è molto più limitata rispetto alle HF, se ne 30 MHz ancora la propagazione è efficiente, più sale di frequenza ed è sporadica, diciamo qualche occasione, adesso l'altro giorno c'erano tutta la Spagna in diretta, arrivavano e disturbavano anche qua a 5.25, infatti ci siamo spostati a 5.50, a 4.33 lo stesso la Francia, ho fatto dei bei collegamenti in diretta, poi c'era questa spedizione che hanno fatto qua, hanno utilizzato il nominativo della sezione aria di Sassari, sono venuti questi francesi ed erano a, come si chiama, quella cosa nuragica che c'è vicino a coso, ad Alghero, aiutami, non mi viene il nome, comunque avrei sicuramente capito, e lì hanno fatto un'attivazione, era un gruppo di radioamatori molto preparati e ci siamo sentiti di lì in diretta, però VHF ci conta l'antenna e soprattutto se devi fare lunghe distanze ci vogliono antenne di un certo pregio, a grande guadagno, molto selettive, molto direttive, se no, con io ho la 7000 che sono mi pare 5 metri di antenna, non è che fai tutte queste cose, eppure non è piccola come antenna. Di nuovo a te, riprenditi il mic, stavo dicendo nominativo, e Roberto comunque da questa parte, Claudio a te. Guarda, 7bus che è un'antenna, è molto direttiva, diciamo, molti elementi, per le VHF, cioè il ponte principale d'Italia, quello delle Alpi Marittime, a 2400 metri di altezza, c'è una copertura dal Piemonte sino, certe volte arrivano anche in Sicilia, l'ascoltano quando ci sono le condizioni ideali, però sino a Roma ci arriva tranquillamente quel ponte, e se tu ti metti una bella direttiva, quello l'ascolti e ti diverti, perché lì si collegano tutta l'Italia, diciamo sino a metà Italia, a metà stivale, tutto l'anno, riescono a farsi coprire, c'è una copertura quel ponte da paura. Poi ce n'è un altro nostro favorevole, quello che c'è ad Imperia, lo stesso un bel ponte, riusciamo a farci a sentirlo. Però se c'è la possibilità, mettiti magari una direttiva sotto la mantova o con l'antenna che c'hai, puntata di lì e vedi che ti divertiti, se ti piace fare ascolto. Per parlarci, per il momento ancora non ci puoi parlare. Io ne ho una, anzi due, ne ho delle antenne da montare, una direttiva che mi ha dato Walter, mi sembra sia una 920, adesso quando ho tempo la metto, e poi ne ho un'altra più piccolina, tanto ho la possibilità di un cavo in più e la metto di lì. Così, sempre avere qualche antenna in più non fa male, dai. Fino a te riprendi, Claudio. Sei presente che molti ponti a Sassari, nella notte, anche se ce ne sono tanti in Sardegna, molti non riusciamo a tirarli fuori. L'R0, il 145 e il 600, sarebbe il ponte di Monterraso, è sempre in manutenzione, lo gestisce Walter, però è un po' sordo come ponte, non è molto utilizzato per quel motivo lì, in molti momenti c'ha delle difficoltà. Il ponte, bella copertura che funziona più che bene, è il ponte di Fiume Santo, quello che c'è dove c'è la centrale elettrica di Fiume Santo. L'R2 Alfa, quello è una bestia, 145 662.5, quello è eccellente come copertura, è tenuto sempre in modo importante da chi lo cura. Quello di Itiri così anche se c'è un'ottima copertura, però è poco trafficato, mentre quello di Coso Fiume Santo ci parlano anche qualche francese, si collega qualcuno della Liguria, molte volte riescono ad attivarlo. Poi ci sono gli altri, quello di Coso, di Imperia, c'è il ponte Imperia delle Alpi Marittime, quelli sono iscritti. Poi c'è sempre attivo che arriva molto forte, quello l'R1 Alfa di Aiaccio, 145, te li sto dicendo in diretta, 637.5, a meno 600 sempre. Quello ha una bellissima copertura, a me arriva a fondo scala. No, non la conosco. Comunque il paese si chiama Bucugnano, è di lì vicino ad Aiaccio, prima tra Propriano e Aiaccio, sono molto in alto, sono quasi vicino al mare, però sono molto, molto in alto, per cui riescono a entrare molto molto bene perché sono nel versante ovest della Corsica. Per cui riescono, c'è un paio di amatori, ho parlato, che parlano tra l'altro anche bene l'italiano, lo utilizzano, c'è un ponte ad Aiaccio, di vicino è uno su a Corte, non ricordo come si chiama quel ponte, comunque ci parli abbastanza aspetto, lo so. Quel ponte di Aiaccio, quello che ti ho detto prima, a 637, quello è una bomba, arriva che è un segnale da paura. E poi ce ne sono anche altri, però te vedete non ce ne sono molti radioamatori in Corsica, non più di tanto. Francesi ne prendo a bizzeffe perché sono sempre, non in VHF naturalmente, in HF, ce ne sono pure troppi spagnoli, cioè ti stanchi anche di sentirli molte volte perché ti hai collegato 200 volte, alla fine se devi fare delle operazioni varie, dei collegamenti ad altre persone perché sono arrivano talmente forte, magari ti sovramodula quando fai a fare le IDX, le chiamate lontano. Però quando una volta che hai fatto i country li hai già collegati, alla fine non stai neanche a perdere tempo, magari se lo fai in 27 la Francia o la Spagna ti stimola, c'è la Spagna, andiamo qua, là, ed è molto stimolante. È un altro mondo quello delle HF, perché con un pezzo di filo, che non pensavo tra parentesi, e ti consiglio di fartelo, ti metti un pezzo di filo buttato sul tetto, senza grosse pretese, e ci fai degli ascolti da paura. Ti sto dicendo, ti diverti, perché ti metti un'antenna con una lunghezza di 20 metri, 10 più 10, e ti fai delle belle, sui 40 metri arrivi, e ti diverti tantissimo. Sì, magari sono dei ponti, siccome c'è la protezione civile antincendio e cose del genere, magari li utilizzano tipo come abbiamo noi la protezione civile, si appoggiano, siccome di lì è tutto impervio, di lì non puoi usare il coso, cioè vanno in linea ottica, non ci sono le pianure che per dire puoi fare 50 km in linea ottica, di lì è tutto montagne, vallate, eccetera, tipo quando vai su nelle Alpi, per cui devo metterci qualche ponte ripetitore e utilizzano quelle cose lì. No, a me mi è capitato di sentire, infatti ho detto a 40 MHz dei radioamatori, però non erano italiani, infatti una frequenza mai sentita ed erano a 40 MHz. Ciao, è sempre un piacere anche da parte mia ascoltarti, tuo padre l'ho sentito l'altro giorno per telefono, mi sembra ieri o avanti ieri, ci siamo sentiti. Ok, saluta a tutti anche in casa, tuo babbo, tua mamma, tuo fratello, dai, ci avremo modo di riascoltarci quanto prima, anche io vado in corretti, chiudo che ci sono già da un po' in radio, tra l'altro c'è molto caldo. Ok, saluto anche gli eventuali amici qua a SWL, corretti da parte mia, ciao a tutti. Oh, scusate che io poco fa sono mancato, dai, così, perché stavo fare una cosa urgente. Comunque ciao Roberto, ciao Claudio, alle prossime, ciao, buonanotte, saluta a Babbo Cla, ciao Deia, ciao Cla, ricambiato il tutto, ciao Roberto. avanti, chi vuole entrare? Ora, ora, chi è avanti? Ebbè, bello! Ebbè, chi è? Mi è piacere più felice, ma... Salucchia. Ciao, Franco. Compendi, cazzo compendi, sono normale che cazzo compendi. Su 12 watt sono. 12 watt? Oh, buono. Eh beh, ci sono 140 mi, non è che ci sono un barattino di metro, no? Sono 140, 12 watt in uscita. Con il cofano non sono originale normale. Vecchia. Vabbè. Ho pensato che era suo originale. Non te ne ricordavi forse. Chi è la gara? E allora cosa stai combinando? Una, vedi QRM, beh. Quindi, a parte il QRM, vabbè, stasera sono andato a fare l'impianto di satellitare, cazzo, non ho capito piedi. Ci sono i corsi della nave italiana, cazzo, la linea con la motosega, cazzo, ma tu immagini, cazzo, per avere la parabola, cazzo, con Marco. A lui vuole tagliare la motosega, al collo, non la motosega, cazzo. Dice, fino alla settimana scorsa dice, vedevo, ma è come cazzo stai dicendo, gli ho detto, come, se non vedevi adesso non vedevi neanche prima, gli ho detto, e finisce, gli ho detto. E comunque, fa quello che vuoi, gli ho detto, gli alberi vogliono tagliarti, poi metterla come cazzo vuoi, gli ho detto. A me lo piace, gli ho detto, a quello che c'è di fronte a te. In un carretto la gancia direttamente lì e se la a me lo vedi. C'è gente strana in giro. Sì, c'è gente strana, guarda, in giro, ma ce n'è parecchia. Così quando gli ho fatto l'impianto satellitare, cioè, l'impianto normale in pizzeria, che mi ha detto, no, oh, io vedevo, guarda, vedevo fino a ieri, tu. Tu non ti rendi conto, io vedevo lei 1, lei 2, lei 3, eccetera, eccetera. Invece non vedevo l'accidente, hai capito? A un certo punto, cazzo, mi si è girato la balla, ha girato, fammi vedere, contro dietro, come si chiama, il televisore, ha girato, sei un grave faulaggio, ha girato, e quanto sei, gli ho detto. Comunque sì, ha detto, bisogna cambiare tutto qua. A te la faccio dietro, lasciate dietro i cavetti. Ma la madre ha tappato fuoco dietro tutti i televisori per le cazzate tue, gli ho detto che era contatto. A quello devi comprare un frigorifero, devi comprare un portatile. E ci rimetti la testa adesso. Dice, perché mi hai messo la testa? E poi per crearti l'idea, anche non sono in una bruciata. Adesso ormai compra, dice Vittore, nuovo, il coso nuovo, il motore nuovo, ho detto fa come cazzo ti pare, ti piace, gli ho detto, a me non mi sbatte nulla, gli ho detto. Comunque cerca di pigliare la motosega, fa tagliare la motosega, tutti quegli alberi, ho detto, pure, ne riparliamo, gli ho detto, ma ti credi che te lo taglio io, con la seghetta, gli ho detto, tu sei tutto scemo, gli ho detto, che io sto tutta la mattina, la seghetta ho tagliato quei rami, gli ho detto, vai, arrangiati, vai, gli ho detto. Chiama qualcuno, tagli i rami con la motosega e poi si vedrà, detto, se vedete, cioè, se non è niente, ho detto, t'arrangi, ho detto. Ehi, ma non c'è nessuno stanotte? No, non c'è nessuno stanotte, prima non sento nessuno. Ah, lui ogni tanto lo entra, a volte non c'è nessuno, a volte c'è gente. Oggi perlomeno non ho sentito nessuno, ho accesso, guarda, oggi io stasera, perché c'è una camera libera, non è male, se no cazzo sono stato già in guardia, sarei stato cazzo a un certo punto, quindi mi sono liberato del peso che c'avevo, cazzo, ogni volta cazzo dovevo stare cazzo a telecamere fuori, quando metto il visore dall'altra parte, cazzo, c'è la camera così, e poi eccetera eccetera, hai capito? A un certo punto ho detto no, ha detto non funziona così la questione. Sì, ma sì, mi hanno messo in un angolino, come il castigo, e sto terrazzo qua, apro la porta del terrazzo, c'è anche il fischietto. Allora, e quindi a un certo punto ho preso probabilmente, ho detto senti va bene così, senti va bene a me, prenditi in alti, e se n'è andata. Non me lo ricordo. Ma c'è la FM, così ti sento meglio, c'è un po' di FM, c'è cazzo. Prova a vedere il FM. Penso che sia un po' diversa, no? A voglia. Qui è tutta un'altra storia. La cosa, perché è molto più pulita, però mi devo mettere lo squelch. E mettici lo squelch, fa quello che vuoi, in parte cazzo che ti senta. Poco fa c'è la QRM forte, non ci vuole aggiungere una cosa a sentirti. Ok, no, così già va meglio, già va. Ho squelchato, in modo che quando mollo sento forte. Manco, a me lo sei tranquillo, visto? Ero già abituato nel Galaxy, mi sono abituato così. E meglio modulare squelciato, capito? In modo che non si sentono rumori. Ah vabbè. Ma so il Galaxy di cosa l'ho sistemato. È a posto adesso. Quindi. E tranquillo, ormai mi sto facendo il callo per i Galaxy, girami. Ma ce l'avevi tu? Quello di Massimiliano c'avevo di Galaxy, l'ultimo, l'ho sistemato ieri, oggi glielo ho consegnato, è a posto. Cosa c'avevi? 14 volt e 40, non l'ho compreso. Quasi 15 volte bolliva, c'era il coso che bolliva. La cosa dietro? Lo chassis dei finali, integrato audio, come si chiama, il modulatore, il resto, il trasformatore, cazzo, una cosa allucinante, arrivava fino a quasi a... sembrava che c'aveva la febbre, sembrava che c'aveva, cazzo, allucinante. Anche il mio scalda, lo sai. Ma non arriva a 40 gradi, no, cazzo, scusa, Non lo so. Come l'hai fatto per misurarlo? A capire quanto esce? Io ho provato qualcosa per misurare più che altro. Ho preso il termometro e l'ho agganciato a fianco, dove c'è il ferro. Mi dava 40,7 gradi, 40, 41, a volte 46, 42, 44. Tu cosa di calorie hai messo? Termostato al calore? Allora, non si poteva toccare, se ci aveva messo, è che non ci ho pensato a metterci un uovo, se no ci aveva messo un uovo senza la chiara, senza quello sarebbe cotto. Sì, ma la temperatura abbassa la temperatura, ma il voltaggio dove l'hai abbassato? Io ho abbassato il voltaggio dalla cosa, da dove c'è l'alimentatore interno, c'è un trasformatore, dopo il trasformatore c'è un alimentatore quadrato messo in orizzontale, e ci sono 7-8 fili che escono fuori, sono rossi, bianchi, gialli eccetera eccetera, e al centro c'è questo trim, non fai altro che abbassare la tensione direttamente da lì. Ho capito. capito un corno, però bisogna vederlo qual è il primer per abbassare e sollevare. Poi misuri col tester, così è. E infatti ho lasciato il tester tutto il giorno acceso, la verità. Non sai che magari andava a dare sbalzi di tensione di colpo, capito? Quello sì. E vabbè, ma se ne abbassa la tensione non si alza se non la tocchi. Cosa ne sai? Il problema è quando comincia a scaldare il trasformatore. Potrebbe il secondario andare in tilt, capito? Darti tensioni strane, capito? A posto di darti, come ti posso dire, 13,2, date le 15 di colpo, 17, dipende, c'è anche il problema è più che altro nei ponti di Iuri, è quello che comanda tutto, capito? Ho capito. Vabbè, ma lui dovrebbe lavorare a 14, a 13 e 8 dovrebbe lavorare. Lavoro 13,8, ma 13,2, 13,10, così lavora l'alimentatore del Saturnecco. Hai capito? Ho chiesto io Albino, mi ha detto, dice, più di quello, dice, no, non dargli. Quale lotte? Perché io c'ho un orario, vedi? L'alimentatore è a 13,8, l'alimentatore. Se misuro dall'alimentatore il voltaggio è 13,8. Invece nella radio c'è scritto 13,6. Però se schiaccio, aspetta, se schiaccio, va a 13,1. È giusto quello, ma è giusto. Quello che invece che c'avevo io come trasformatore ieri, in pratica se io avevo 13,10 scendeva a 12,50, 12,70, quasi 13, hai capito? Perché non era il suo trasformatore originale, hai capito? Sì. No, perché io c'ho V1, CRT micro, e quando schiaccio la portante, cioè, per schiacciare la portante è a 13,6. Senza schiacciare la portante. Quando schiaccio la portante va a 13,1. Vabbè, giusto. Va bene così. 13,1, 13,10, eccetera, eccetera. Anche 12 qualcosa, 12,8. Invece questo andava a 14,40, cazzo, sai che quando andavo a toccare lo chassis dove c'era l'integrato audio che è agganciato dove dissipava, cazzo, era bollente, sai cos'è bollente, cazzo? C'era la pellicola, cazzo, prendeva fuoco da un momento all'altro. Infatti avevo spento tutto, ho detto, no, io ho detto, non me la prendo, ho detto la responsabilità, gli ho detto di lasciare l'apparecchio acceso. Allora ho preso e ho fatto chiamare a Coso, a Massimiliano, e Massimiliano in pratica ha telefonato a quello, mi ha detto, dice 13,8, massimo 13,10, quello che basta che non sia 14, tutto lì. 14 è già troppo, e caspita, lì siamo già in alto, però una volta 13,6, 13,7, 13,8 dovrebbe andare bene. Appunto per quello. C'avevo quel dubbio, c'avevo la verità. E altro non potevo fare a un certo punto. Ora, ora, chi è? Che vuole entrare? Vabbè. Io poi mi ha detto che è stato mal aggiustato, poi vediamo un po'. non è nuovo, però vediamo, qualche giorno lo vado a fare una revisione. Vabbè, già va bene, se non scalda lo chassis interno lascialo così, non toccarlo mi a un certo punto, cosa te ne frega? No, niente, quando pago durando e mudami un bel po', niente, quella, dove c'è quella scatoletta quadrata nera, lì ci sono i finali, ho capito che ci sono i finali, e quella scotta. Ah, ho capito, allora fallo controllare. Se scotta fallo controllare, non è normale. Perché quella non dovrebbe scaldare. Ah, dovrebbe rimanere tiepida. Me lo credo che tu non stai mettendo musica per 2 ore e mezzo, allora ai finali è logico che diventano bollenti e se li scalda. Ma quelli quando gli attacchi un lineare, quello non c'entra niente qui. Se attacca il mio esterno non è che succeda niente, no, la verità. Io ho attaccato più di uno lì all'esterno, ma grazie a Dio non è mai successo nulla. Sì, ma perché è lì che lavorano in potenza, perché con il lineare esterno risparmia anche i finali che c'è della radio. Ho capito. Andrebbe, cosa vuoi ti dica? Fallo controllare, lascia la fettata e fai controllare col tester, se ne accorge subito se ci sono problemi. Vediamo, se scalda ancora di più, vediamo. Break. Infatti, avanti break, chi è? Secure X, this is 1-3 Division, Hotel November, can you copy, over? Buonasera. Italia che ti ascolta, stazione 1 Alfa Lima, operatore Antonio, isola Sardegna, buonasera Germania, ma se mi sbaglio, Buonasera Antonio, this is Oberica Robo. Preparato. Buonasera Antonio, Mattias near Stuttgart, 1-3 Division Germany, over. Buonasera amico dei Germani, ben sentito, Antonio da questa parte insieme a Franco da Sorso, sempre Italia. Very good, very good. Ciao Mattia, ben ascoltato, non so se mi ascolti tu a me. Franco Attila, sempre dalla provincia di Sassari. Ho capito che ti chiami Mattia. Comunque io mi chiamo Franco e l'altro collega Antonio. E ti mando avanti. Avanti a te Mattia. You are fading in. No, ci ho compreso nulla. La verità è anche io. Buonasera amico della Germania, stazione 1 Farima, operatore Antonio Sassari insieme a Franco di Sorso, sempre in Sassari, mi ascolti? Antonio, I can copy you, no problem. Italy, right? Ok, Italia ti ascolta, stazione 1 Alfa Lima, da questa parte, operatore Antonio, isola di Sardegna, Italia. Buonasera, ben ascoltato, sei in compagnia anche di Franco da Sorso, isola Sardegna, Italia. Ti ascolti, sì, ok? Ok, this was loud and clear, 995 company station here, his name is Hardy. Can you try to go to Italy, over? In Sud Germania. Buonasera anche a te, ben ascoltato. Santiago 920 qua, Italia, isola Sardegna, radio 5. Io non so in che zona ti trovi tu, Dimmi la zona della Germania dove ti trovi. Tu non parli molto italiano e io non parlo tedesco, quindi vedi tu cosa vuoi fare. Se vuoi parlare con me, spada italiana, se no pazienza e come si dice, pigliatela in culo e passa buone feste. Buona Ja, guten Abend, Italien. In Sardegna? Sì, noi siamo in Sardegna, però c'è il problema che non lo conosciamo il tedesco, non conosciamo. E ci dispiace perché non possiamo fare un QSO come si deve. Ci dispiace perché non ci capiamo a vicenda, capito? Comunque io sono la stazione Attila Franco dall'isola Sarda, isola di Sardegna, della provincia di Sassari. Sì, in questo momento ci troviamo in Sardegna. Non so se conosci la Sardegna della provincia di Sassari. Sardegna, quando in Sardegna. Capo, sì. Ok, ti mando avanti il mio collega qua in Sardegna sempre, avanti a te, tanto lei. Sì, è anche per noi il grande problema. Beh, ma comunque tu mi arrivi benissimo qua e mi arrivi con una bella radio di 5 e un segnale di 7. Non so come ti arrivo io a te in Germania. Capo, capito, quando tu vieni in campeggio qua, in Furia vieni in Sardegna, ho capito bene? Ciao! Cos'è stato 128 che cosa? Non ho capito. Ok, saluto mio amico dalla Germania, io ti ascolto oscillante parecchio e quindi non ho capito quasi la metà del passaggio che hai fatto. Comunque sia, saluto da parte mia, 751, stavi bene, buon tutto e buona bevuta di birra da parte mia se c'è. Se ce l'hai vicino. guarda, a volte non riuscivo a capire quello che diceva, poi alla fine ho capito che lui quando viene in ferie in campeggio viene in Sardegna. Allora, quando viene in Sardegna, ci ubriachiamo tutti, ci ubriachiamo, basta che lui ci avvisi prima, quando viene in Sardegna, così almeno ci troviamo, ci ubriachiamo, tutti quanti. La lingua non c'entra nulla, l'importante è che sia boccione. Cazzo. La Germania solo che non li capisco. È quello il problema più grosso. Io non so la stessa identica cosa. E Simona che capisce tedesco, io no. Purtroppo, lui parla tedesco, io non parlo per niente. Simona lo sai di Bolzano, quindi è bilingue, a un certo punto capisce tutto il tedesco, io no. Capo, guarda, io ho un fratello che ha lavorato una vita in Germania, su casa, ha lavorato e parla bene il tedesco. Avrebbe parlato bene il tedesco con questo. E vabbè, cosa ci vuoi fare? Purtroppo non abbiamo studiato le lingue. Quello già è vero, la coppa è la nostra, dovevamo studiare lingue tedesco, spagnolo, inglese, francese, eccetera, eccetera. Purtroppo è così la storia, non ci possiamo fare un accidente, bisogna arrangiarsi, diceva quello. Avanti break. Un altro me. Radio Turismo. Sono ben Italia Letta, avanti Austria, buonasera Italia. Ha detto 20 km dall'Austria, così ha detto. Boh, mi sembra di sì, perlomeno. Boh. Da quando c'ho questo aggeggio qui, sembra usare non un baracchino, un telefono sembra usare con la Germania, Austria, quello che è, tutti i tedeschi cazzo sento io, mi chiamano eccetera eccetera, è una cosa allucinante, non è come l'FM500S, il 3009 eccetera, tutta un'altra storia è la verità. Ma lo sai Antonio cosa sto usando io adesso? Non lo so, sarà boh, 140. No, niente, niente di tutto quello. Sto usando il presidente Lincoln e come microfono sto usando l'MC60. Non va bene, ha voglia, c'è anche l'avvanto, c'è. Sion Calypso. Capito. Ebbè, guarda, è come che stai usando un HF. No, l'HF ce l'ho spento, ce l'ho da una parte, l'ho messo. Però adesso domani lo accenderò perché sono da già più di una settimana che non lo accendo. Ma io l'ho acceso oggi la vetta, a me questo. Era una settimana che non lo accendevo la vetta, perché c'era mia nipote, quindi a un certo punto non potevo stare qui in camera, eccetera, eccetera, e c'era lei. E quindi ero come se fossi in galera, a un certo punto andavo a letto verso le 9, 9 e mezzo, mi pigliavo la pastiglia per dormire, e proprio cosa ti posso dire, demoralizzato, stressato. Adesso almeno sono tranquillo, mi sento più a mio agio, capito? È come se ti manca qualcosa, quando uno non ti fa usare cioè gli apparecchi tutti i giorni, capito? Sei abituato a quel tanto lì, anche se non usi, tanto per dire un'ora al giorno, quello che è. Beh, almeno a un certo punto è così. Adesso, meno male, mi sono ripreso il mio spazio e sono tranquillo. Beh, capito, almeno puoi chiudere la porta e non ti sente nessuno e non hai problemi, capito? Almeno quello. È bello quando uno usa le radio e non dà fastidio a nessuno. Quello sì. Ma prima non potevo farlo, il discorso era quello, c'era la televisione, i videogiochi, eccetera, eccetera, fino alle 5 del mattino. La faccia la fai. Non esiste, io fino alle 5 del mattino non ci sono mai rimasto al baracchino, quindi lei usava i videogiochi per parlare con gli altri, io sai che parlano in 4, 5, quello che è, c'è questo, questa storia di gruppo, parlano insieme tutta la notte, poi cazzo alle 5 del mattino cazzo si addormentano e secondo te cazzo alle 9 hanno voglia di svegliarsi, le balle, il discorso è quello. Ha avuto quel vizio lì e adesso spero che gli passi, se no è fregata, che cazzo va a prendere a lavorare a un certo punto? Se uno sta fino alle 5 del mattino al telefono con videogiochi, parlare con 4 persone differenti, eccetera, eccetera, no? Io, meno male, questa roba qui non ne uso, non mi è mai interessato, specialmente il telefonino, il computer, quello che è. Anzi il computer l'ha già regalato, gli ho detto tienitelo, gli ho detto non ne voglio neanche sapere del computer io, no? Perché è una gaggata, non devo stare per queste coglionate, ho detto buttato lì, me ne esco gli occhi fuori, eccetera eccetera, la cazzo mi è... E quindi io ho detto tieniti il computer, te lo regalo, non me ne sbatte nulla, fanne quello che vuoi. Faccio 18 ore al giorno, prima o poi già te ne pentirai, quando arrivi a 40 anni che non ci vedi più, ho detto con gli occhi, vedrai che te ne pentirai, gli ho detto. Capo. Sai cos'è Antonè? Che uno che si deve alzare presto la mattina per andare a lavorare, cosa così, non è che può stare lì tutta la notte al telefono. Così quello lo posso fare io, può fare che non sto lavorando. però uno che lavora mica lo può fare, capito, lo mangiare lo devi già, te ne devi. E a stare così tutta la notte col telefonino è dura, eh? No, io grazie a Dio, la verità, stamattina alle 5 ero già in piedi, figurati tu. Ero già in piedi, sveglio, sono rimasto sveglio, sono andato in bagno, ho fatto quello che dovevo fare, poi sono rimasto un po' a letto, perché era già, era presto, dopodiché alle 10 avevo l'appuntamento, quello delle... che c'è qui di fronte, poi è arrivata la finanza, lei ha controllato tutto, cazzo, la documentazione, sono stati in quattro, cazzo, a rompere le balle, cazzo, tutto, fino al buco del culo hanno controllato, cazzo, se ne sono andati a mezzogiorno e mezzo se ne sono andati. Ma chi è quel bar che c'hai sotto? Ero qui, stamattina. In quattro erano, in quattro a controllare tutto, tutto, quanto c'era di gasolio, quanto se c'era acqua, se c'era tutto hanno controllato stamattina, sono andati quasi a mezzogiorno e mezzo, figurati. Vuol dire che c'è stato qualcosa, non penso che uno arrivi così, vuol dire che c'è stato qualche spiata. No, non penso così, non è tipo capito lui da fare una cosa del genere, anche perché lui vi fornisce ogni settimana, capito, ogni 15 giorni lui arriva alle, quindi non ha nessun bisogno, hai capito, grazie a Dio vende, quindi non ha nessun bisogno, il discorso è quello che magari qualcuno è geloso, dice cazzo, questo cazzo in casa più di me, eccetera, eccetera, capito? E quindi rimangono di controllo. Dice, come mai è così strano? Arriva ogni 15 giorni è arrivato stamattina, figurati, a rifornire. Fra 15 giorni un nuovo Quimi, l'autobotte. Se vende più di un altro è evidente che sarà una posizione molto migliore. Senz'altro sì, perché non è possibile, magari come percezione migliori, non lo so. La stamattina erano in quattro, me cazzo, in quattro era. Cazzo. Erano più di un'ora e gli ho detto, ma quando è che andiamo al coso? Ho detto, così faccio questo coso, dice, non posso muovermi, mi ha detto, dice, beviti una birra intanto, mi ha detto, poi dopo un po', quasi un'ora e mezzo, dice, beviti un'altra, è arrivato su continuo così, ho detto, fa una cosa, che li invita a pranzo, ho detto fai prima, ho detto i ristoranti, a me lo cazzo se ne vanno a fanculo, cazzo, posso stare tutta la mattina buttate, cazzo, a controllare il coso, dentro me, in pratica. È come se tu mi dici, siamo venuti a fare il controllo, mi lasci le chiavi, chiuda tutto e poi ci vediamo domani mattina, cazzo, ce la fai. No, non ti devi preoccupare, non altro me. Se tu li inviti e ti butti a mangiare, e già tornano pure, dopo pranzo tornano. Infatti è così, alla fine si è rotto le balle lui. Dice, già per un giorno, dice, mi hanno detto, dice, che fa poco vengono, non sono venuti, allora... Dice, io andiamo, dice, a Colongiano, se si è dato il cane in culo, mi ha detto, dice, se vogliono venire vengano, controllano e si è dato il cane in culo a un certo punto. Quelli lo trovano sempre il tempo per venire a romperti le scatole, vai tranquillo, non ti trovano oggi, già ti troviamo. Grazie, ma in quattro, grazie. Una cosa, guarda, io non ho mai visto una cosa del genere assurda, cazzo. Senza essere in divisa a me, hai capito? Normali. Senza essere in divisa, in quattro era. Certo, non vanno in divisa così. A volte se c'è qualche... che sono mandati proprio... che c'è qualcosa, allora vengono anche in divisa, ma se sono solo a fare controlli così sono tutti senza divisa, quelli si mettono fuori dal bar, si mettono e e poi ti controllano gli scontrini. Sì, non va lo scontrino, so cavoli amari. Sì, infatti gli avevo visto che erano prima fuori, poi sono entrati dentro, hanno bevuto, e capite? Poi sono andati all'interno del coso per controllare tutto, gli hanno controllato tutto, tutto quanto. Pezzo per pezzo, mi sa dire, tutti i fogli, ingresso, uscita, tutto li hanno controllato. E tu perché cazzo hai detto di preparare un po' di elettori di sardine? Davvero glieli metti di fronte e ti mangiano lì, se ne vanno a fanculo, gli ho detto. Senti, operarietà, quelli quando tu arrivano, che tu li vedi che sono già dentro, che ti chiedono, la prima cosa che ti chiedono, ci dà tutti i fatturati. Cazzo, e che vedi che tu non hai i fatturati? Perché i fatturati possono essere di mesi, anche il fatturato di un anno, capito? Ok, bello, bello Italia, Isola Sardegna che ti ascolta, buonasera, chi sei tu? Buonasera. Mi lascio me. Perché se lo fa vedere in italiano, non lo comprendo nunca, non lo comprendo. Tu fa vedere questa salito, ma vedi che si craccano, che hanno il papà di salito. La Rove stai trasmettendo, tu amico che chiami Bella Italia, la Rove trasmetti qua, la isola Sardegna, stazione Ulan Salima, tu dove trasmetti? Amico, io... mi sembra che... Caricumprende, bravo. Bella Italia, bella Italia. Qua purtroppo ci vogliono donne, procurate donne per Bella Italia, procurate donne ucraine, perché noi siamo senza donne. Ah, ne va vedendo. Ora siamo senza donne. Senza Rubén, mi sembra. Ma i siti nemi Sassari, oh, per carità, non ho più gara di fare di ex, avanti. Uiaia. Se per quello che te l'ho detto, non ne vale la pena. Cosa ci vuoi fare? Purtroppo, entrano perché ci sentono, magari come noi sentiamo loro. Invita la sorso. Ma una cosa non intende. Possiamo anche discutere, ma se tu non parli italiano, noi non capire, no? Purtroppo è così, non a studiare lingue. Und so weiter. Und triffst nachher auch auf Viersen und auf Mittenlasser. Vabbè, lei non ha preso. Appunto, perché non capisco manco io. Non ho capito se ha amico bene Italia, ma se Austria o Germania. Hamburgo. Dass dein Haus aufgeheizt ist, weil das nicht isoliert ist, mein Lieber. Das ist schön aufgeheizt, so einen ganzen Tag da drauf. Amico che chiami Bella Italia, dove sei? Germania oppure Austria? Non capisco una fanculo, perché uno si parla, uno si parla l'altro. C'è un tedesco e un altro. Non capisco niente. amico della, che chiami la Bella Italia, parlate tutti in due, tu e poi una dalla Germania, quindi parlate uno sopra all'altro e non si capisce un tubo. Sind zwar viele Italiener hier, aber ich versuche dann nicht zu machen. Auch mal aus Westdeutschland. Ja, carità, cazzo, mio casino. Ma lasciali perdere, stanno parlando solo di loro. No, fra di loro non penso perché non si capiscono, ma comunque sia Austria e Germania quanto sembra non si sentono, secondo me un austriaco l'altro è la Germania, quindi non si sentono e parlano uno sopra l'altro. Te aggancio l'altro, la calefia a vedere. Vabbè se mi intende. Le cose sento fatto. Ah, attacca il che è che è meglio, attacca, così me lo fai schiattare. Non mi voglio attacca, stai attacca, attacca. Domani vediamo. Angi mati bassa me, attento my friend del tango uniform. Ma dice si chiama Roberta? Tu è austriaco, tango uniform è austriaco. Lady Station Alfa Lima. Italy, Formo Sardinia, Tango Uniform. Ok? Repeat my city name. Station Alfa Lima, Sardinia, Italy. Sassari, my city Sassari. Sassari, ok, Sassari, ok. Ok, Sassari, Sardinia, Sierra Alfa, Sierra, Sierra Alfa, Romeo, India. Istra, Sardinia, Italia. Tu hai capito cosa fa? Parlo insieme a quello tedesco, cazzo è un casino, non si capisce una fanculo. Parlano in due. Infatti, comunque tu hai capito, certo? Sì, l'altro mi ha capito, quello già l'ho capito anch'io, però parlano in due, lui e l'altro è tedesco, capito? Quindi si parla uno sopra l'altro, sembra che io stia rispondendo o uno all'altro, capito? Il discorso è quello lì. Infatti è proprio così. Vabbè, fa niente, digli che ti mando la conserva. Oh, capire, è bella la preparazione tedesca, guarda, di notte. Tutta notte, i tedeschi, cazzo, Austria, tedeschi, anzi, Austria, Germania, è bello di notte. Invece di giorno c'è la Francia, eccetera, eccetera.